quando sono solo sogno l'orizzonte mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostrai tutto il mio cuore che hai acceso. Chiedi dentro me la luce che hai incontrato per strada. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Earth's I shadows descend, and I see no end. When my hope is gone, and I don't belong, somewhere in my mind, I reach out to find. Shines in the dark, the music begins, I hear violins, the orchestra plays, it's amazing, it carries me away. The stars are on fire, and heaven bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Was the holy Remember Hallelujah. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Sonho